quando sono su pago la tarsù, quando sono in allegria paghi la tia. Per lavoro viaggio moltissimo, macchina, treno, con la gastrite a top. Con una precisazione, dottor colesterolo, dottora Voledo. Dottora Voledo. Faccio l'autista. E quindi? Quando mi arrabbio, insomma, il giorno dopo, detto alla sociara, che ho la cagarella fissa. No, va bene, Carlo. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Chissà se Carlo del nostro fuori onda con questo problema che ha scia. Però insomma, abbiamo dei posti bellissimi in Italia, va. Cerca di non arrabbiarsi il giorno prima. Esattamente. Comunque guarda, io Nicoletta questa attrazione per lo sci sarò anche antiquata, non so cosa dirti, ma non la capisco. Perché tu sei marchigiana, sei nata al mare, hai la coscia lunga, quindi tutti i difetti del mondo. No, non sei portata forse per lo sci da discesa, perché ci vuole il baricentro basso. Potresti provare col fondo o con le ciaspole, che tra l'altro sono tornate di gran moda e sono anche risparmiose. Sono risparmiose. Allora sentiamo un po' gli ascoltatori. 800 24 00 24, se volete raccontarci, non se avete la gamba lunga o corta, ma o il problema di Carlo. Ho il problema di Carlo. Ma vogliamo sapere se la neve vi piace, se andrete a farvi una sciata anche solo di un giorno, se state facendo un po' i conti per capire se potete permettervelo e portare tutta la famiglia. Allora, riflettiamoci un po'. E Nicoletta, visto che tu mi spieghi sempre a fare queste cose, ad assecondare il cuore, io però sai che ti dico che sono sempre costretta a ritornare sulla mia strada, a guardare il portafoglio, i prezzi delle case in affitto, delle piste. Dovrei anche comprare l'attrezzatura qualora mi volessi avventurare su una pista da sci. E allora 349-238-6666 e i nostri social per condividere i vostri dubbi sul listino prezzi di quest'inverno. Insomma, Deborah, tu fai da apripista, fai i conti così noi impariamo e ti veniamo dietro. E allora andiamo sulle piste di Cuore e Denari. Natura, nutrizione scientifica. Vi presenta Essere e Benessere. Alberto, per vincere deve battere i milioni. Vai Alberto. 44 centesimi, campione del mondo, grande Alberto. Allora, tutti in pista, anche se non tutti siamo Alberto Tomba, comunque è arrivato il grande momento. Se amate la neve e già state assaporando il piacere di una bella discesa, chiamateci, perché oggi abbiamo a disposizione tanti esperti all'800 24 00 24. Fateci sapere se praticate lo sci alpino, lo snowboard, il fondo, come pensate di affrontare piste e anelli. Vi state però preparando con tutti i riguardi? Vi sentite in forma? Allora, noi abbiamo pensato di invitare il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo, che è qua in studio con noi. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati a voi e a tutti gli ascoltatori. Vogliamo che il dottor Confalonieri ci aiuti a fare una sorta di check della nostra forma fisica. Guarderemo però nel corso della trasmissione anche alla sicurezza, lo anticipiamo ai nostri ascoltatori, e il portafoglio, perché sciare costa affittare una casa in montagna, mettere in piedi tutta l'attrezzatura, ma a Cuore e Denari vogliamo anche aiutarvi a togliervi qualche sfizio, salvaguardando cuore e denari. Allora, dottore, iniziamo dal cuore, inteso come salute, benessere. Sciare è sicuramente piacevole, divertente, fa bene, però fisicamente mi sembra un po' impegnativo, anche per chi non ha le gambe lunghe come Deborah. Questo è un aspetto che l'entusiasmo spesso tende a far dimenticare. Ma sciare è sicuramente impegnativo, qualsiasi disciplina soprattutto impegnativa, sia pure in modo diverso lo sci da fondo, lo snowboard piuttosto che le ciaspole. È impegnativo innanzitutto per il clima in cui facciamo questo sport, perché mediamente si scia al freddo. Il freddo di per sé è già uno stress, ci obbliga a consumare parecchia energia, sollecita in modo impegnativo il nostro sistema cardiovascolare. Quindi già fare sport al freddo presuppone il fatto di essere in forma accettabile da un punto di vista generale, cardiovascolare in particolare. Quindi una controllatina a questi due aspetti la darei. e poi è indubbiamente impegnativo dal punto di vista strutturale, dal punto di vista articolare. Se abbiamo delle ginocchia non tanto a posto, una schiena non tanto a posto, è chiaro che le sollecitazioni dello sci sono indubbiamente elevate, anche se indubbiamente attualmente nuovi modelli, questo sci detto carving ha facilitato molto le cose. Siamo anche io e lei. Quindi in termini di rischio direi che lo snowboard è di gran lunga la specialità che è più rischiosa e più impegnativa. Poi viene lo sci da discesa e infine il fondo, che è molto impegnativo sul piano cardiovascolare, ma lo è molto meno sul piano delle articolazioni. Allora, agile, resistente e coordinato. Queste sono le caratteristiche che deve avere chi affronta lo sci, ma lo sciatore deve essere anche dotato di una certa forza. In una parola, per affrontare tutto questo dobbiamo essere in forma. Io ho anticipato ai nostri ascoltatori che oggi avremo provato a valutare con la loro chiamata il loro stato, no, di forma fisica, perché poi ci sono tante persone che non sciano da tanto tempo e dimenticano, per il piacere di andare a sciare, che lo sport è uno sport particolarmente impegnativo. Poi spesso si prende subito il giornaliero e si scia magari solo un giorno, si va al mattino, si torna alla sera, e per chi è amante della neve si cerca di sfruttare al massimo il giornaliero, ma questo sono ore e ore sulle gambe. Dottor Confalonieri. Ecco, qui proprio mi rivolgo ai nostri ascoltatori, sapete che amo far loro domande e aspetto le loro risposte. Quindi vorrei capire quanti di voi non fanno sport abitualmente, però si concedono il piacere della sciata, cioè per quanti di voi lo sci è un po' l'unica attività che si fa, e magari si fa una o due volte a settimana, uno o due giorni all'anno, e diventa davvero impegnativo perché ci si arriva anche stanchi. E invece per quanti di voi hanno pensato di riprendere a sciare, magari sono 20-30 anni che non lo fanno, ma adesso è giunto il tempo, è giunta l'occasione di farlo con la famiglia, questi li vorrei sollecitare a provare con alcune precauzioni, ma è un'altra indagine che mi interessa capire. Quanto tempo è che non sciate e siete sciatori occasionali anche se non siete sportivi? 800 24 0024. Francesco da Napoli, per esempio, sì, dice che non ha mai sciato, a 40 anni chiede se può imparare, comincia da zero, a parte il costo, ma magari fisicamente cosa deve fare per attrezzarsi? Si può cominciare a 40 anni? Direi che si può sicuramente cominciare a 40 anni. Bella voglia. I nuovi sci sono molto più facili da gestire. Anche io, per esempio, sono stato senza sciare per 30 anni e mi sono magicamente ritrovato più bravo di 30 anni prima cambiando tipo di sci. E rispetto al costo dell'attrezzatura gli consiglierei senz'altro, visto che prova e poi magari non gli piace o non si sente abbastanza abile, di prendere l'attrezzatura per un giorno, di noleggiarla. Questo anche dal punto di vista della sicurezza spesso è una garanzia, nel senso che il materiale che noi noleggiamo, oltre a costare relativamente poco, è sempre materiale ben revisionato, appunto, di solito sono anche i modelli più recenti, e quindi noi abbiamo la certezza di sciare con un materiale che ci asseconda dal punto di vista della sicurezza, quindi si riduce il rischio di infortuni. Ci sono davvero tanti messaggi. Veramente, che guarda, stanno arrivando al 349-238-6666. Anche un ascoltatore, Andrea, ci dice che quest'anno lo sport invernale sarà ben brûlé e polenta. Eh sì, la ginnastica della mascella, d'altronde bisogna fare anche quella. Ma andiamo a Bergamo. Andiamo a Bergamo, da Benny? Sì, ciao. Ciao. Danny, con la D. Sì, Danny, esatto. Buongiorno. Esatto. Niente, io faccio molto sport perché, diciamo, a parte il discorso palestra, sì, lo sci praticamente per me è lo sport uno dei principali dopo il ciclismo, diciamo. Quindi lascio lo sci e sto usando parecchio le ciaspole ultimamente. E devo dire che usando le ciaspole è molto bello. Vero. In mezzo alla sci, in mezzo Danny, alla io le ho consigliate a Deborah. Perché sì, c'è il baricentro alto, vanno alto bene. Sì, certo, no. È uno sport che fa veramente bene, prima di tutto. Fa veramente bene, non è assolutamente impegnativo, cioè nel senso, se si fa a livelli turistici va tutto bene. Naturalmente poi ci sono anche quelli che lo fanno a livello proprio agonistico. Un po' più impegnativo, certo. Diciamo. Io vado, diciamo, sull'impegnativo quando vado a fare certe cose. Ha fatto bene. Sì. No, voglio sapere. No, sta No, lei alla fine di una bella ciaspolata, Danny, che bella magnata ci mette dietro? Che bella? Mangiata, gliel'ho detto un po' là. Devo essere, no, lo so, però ecco, quella cosa qui è importante, e l'importante è non appesantirsi. Certo, né prima e né dopo. Grazie, Danny. 800 24 00 24, magari a qualcuno è venuto proprio la voglia, come al nostro ascoltatore, di iniziare a sciare quest'anno, di regalarsi una giornata, un paio di giornate sugli sci. 800 24 00 24, ma ci sono tra di voi tanti appassionati, allora raccontateci che tipo di sci fate, come ve la cavate, ma soprattutto restate con noi per capire un pochino se la vostra forma fisica vi mette al sicuro, perché dottor Confalonieri, appena si dice forma fisica il dottor Confalonieri si illumina. Cosa dobbiamo dire? No, mi è venuta in mente un'altra curiosità. Quanti di voi d'inverno integrano lo sci con un'attività che fanno abitualmente durante l'anno? Perché spesso questo viene fatto e può essere fatto in modo intelligente o meno intelligente. Per esempio il nostro amico indubbiamente sci da fondo o ciaspole abbinate al ciclismo, uno migliora il rendimento nell'altro di sport, quindi sono sport cosiddetti sinergici. Io personalmente consiglierei invece, se uno tutto l'anno fa uno sport di resistenza come il ciclismo, d'inverno di dedicarsi a uno sport di forza, di coordinazione, di velocità come la sci da discesa, così sviluppa in modo organico tutte le diverse qualità. So di andare un po' controcorrente, però se andate in bicicletta o correte d'inverno, d'estate, perché d'inverno non fate lo sci da discesa e andate a lavorare anche su quelle qualità che durante l'anno non sviluppate? Questa è un po' una provocazione, ma vorrei sapere quali fra i nostri ascoltatori sono d'accordo con me. 800 24 00 24, sentiamo Cristina che ci chiama da Verona. Buongiorno Cristina. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Uh-huh. E vi volevo sottolineare che ascoltarvi anche quando si lavora è veramente piacevole. Cristina, e che carina che alleggerite veramente la giornata. Guardi, Cristina, sicuramente faremo un taglietto del suo intervento, uh-huh, e lo spareremo nei prossimi giorni, lo ascolteremo. Esatto, con lo portiamo sulla scrivania del nostro direttore, che salutiamo. Grazie Cristina, comunque ci dica. Allora, intanto io confermo la passione per il fondo come Deborah. Non sono portata, diciamo, come Deborah, non sono portata per niente per lo sci da discesa, non lo capisco. E ad ogni modo credo che in questo periodo economico che stiamo vivendo un po' tutti, questa cosa gioca un po' a mio favore. Certo. Il fondo è uno sport bellissimo, che può essere praticato veramente da tutti. Dove lo fa lei, Cristina? Perché poi parleremo di località di montagna più o meno convenienti anche dal punto di vista economico per chi vuole farsi la settimana bianca prossimamente. Dove va lei generalmente? Allora, il mio spazio preferito è in Folgaria. Uh-huh. Però mi piacciono anche le zone delle Regole, in provincia di Trento, vicino a Fondo, appunto c'è un paesino che si chiama proprio Fondo, uh-huh, Malosco. Fondo, dove ci sono dei buoni anelli di fondo, Cristina? Sì, della Val di Non. Sono veramente spazi meravigliosi con una natura spettacolare, mm-hmm, ed è bello perché al contrario dello sci da discesa, mm-hmm, non si trova traffico, si pratica questo sport in totale benessere. Intende traffico, intende traffico lungo le piste, immagino, Cristina. Esatto, mm-hmm, non c'è bisogno di attesa per lo ski lift e oltretutto un'entrata ad un anello anche ben articolato non costa più di 12, massimo 15 euro. Quindi ci fa risparmiare, è uno sci risparmioso, certo, per questi tempi, mm-hmm, e infatti stanno tornando molto di moda anche le ciaspole, perché proprio sono a disposizione di chi vuole investire solamente la propria energia, la propria voglia di fare sci, di stare a contatto con la natura. Dottor Confalonieri, due precisazioni. Ormai mi fa solo così col ditino. Vi capite al volo, siete uno spettacolo a guardarvi. Mi fa. Fortuna che siamo in radio. No, due precisazioni. Sono d'accordissimo con la nostra ascoltatrice. Per chi non fosse allenato, attenzione però, lo sci da fondo è comunque faticoso e presuppone un minimo di tecnica, quindi non pensate di arrivare da persone magari non allenate, in sovrappeso, mettervi gli sci da fondo e partire, perché potreste fare molta fatica, rimanere delusi e abbandonare uno sport che invece è bellissimo. Quindi la prima volta poco e possibilmente con un maestro. Okay. Rispetto alle ciaspole invece se ne parlerà magari dopo, attenzione, perché con le ciaspole spesso si fanno i fuoripista e ricordiamoci sempre che la montagna, così come il mare, è estremamente pericolosa da un punto di vista meteorologico, quindi massima prudenza e ascoltare sempre il consiglio degli esperti, accompagniamoci a qualche esperto, certo. non improvvisiamo. Ci parleremo, per rispondere anche agli sms dei nostri ascoltatori, anche di alimentazione. Esatto. Assolutamente importante la colazione, fondamentale prima di affrontare le piste, ma soprattutto vogliamo raccomandarvi le fermate, quando ci si ferma per riscaldarsi, si mangia magari la polenta, ma molti aggiungono qualche cosa di più corroborante dopo il caffè, il grappino, tanto per scaldarsi. Attenzione, perché è una scelta un po' pericolosa, dottor Confalonieri. Sì, è molto giusto il suggerimento di fare un'ottima prima colazione abbondante, di fermarsi per spuntini frequenti, calorici sì, magari non in modo eccessivo, ma comunque l'introduzione di grassi se si scia non è così dannosa. Fate invece molta attenzione agli alcolici, perché il primo effetto degli alcolici è una vasodilatazione periferica, quindi facilitano la dispersione di calore e quindi sono assolutamente controindicati mentre si scia. Oltretutto rallentano indubbiamente i riflessi e quindi, essendo lo sci uno sport di coordinazione, certo, perdiamo più calore e perdiamo riflessi, insomma non è il massimo. No, carino, perché sì? Mi scrive un'ascoltatrice, dice: la coscia corta, al baricentro basso, sono nata in Trentino, in alta montagna. Ho vissuto lì 40 anni, odio lo sci in toto, viva il mare, buona giornata. Vedi, sono tanti. Perché la legge del contrappasso, che ne so, cioè non so, forse non è. Ci si divide adatta. Proprio, pro o contro la montagna, e forse sono pro gli Alessandro dalla provincia di Varese, Stefano da Venezia, che vogliono intervenire in trasmissione. Sentiamoli subito. Allora cominciamo con il veneziano. Stefano, buongiorno. Buongiorno, ci introduce ad un tema a cui siamo molto affezionati, quello dei bambini. Sì, infatti. Beh, io scio da oltre 30 anni e ogni anno, diciamo, mi prendo dei giorni e vado sempre spesso in Alto Adige, che ci sono dei posti meravigliosi. Facciamo anche un po' una specie di mappa delle località più gettonate. Okay. Esatto, le vostre preferite. Okay. Dove va? Allora, la preferita è sempre l'Alta Badia, che è una cosa, diciamo, da fata. Penso che in Europa non ci siano impianti e posti così, diciamo, comprensori così vasti collegati, perché l'Alta Badia è collegata alla Val Gardena, c'è la possibilità di fare il, diciamo, famoso giro dei quattro passi, sì, che collega Rabbaco alla Val di Fassa. Per cui è un giro che dura, diciamo, una tre quarti di giornata, con, diciamo, paesaggi veramente incantevoli. Poi, diciamo, ecco lì c'è un'ottima ristorazione, perché vedi che va lì, si finisce sempre lì, vero? Sì. No, veramente sono molto professionali, proprio veramente, anche negli alberghi, nei rifugi, proprio gourmet di alta qualità. Senta, ma Stefano, costa tanto, esatto, tutta questa, questi ci introduca al tema dei denari anche. No, diciamo che allora c'è, ogni vallata ha il suo ski pass, per esempio chi vuol fare solo l'Alta Badia, solo la Val Gardena, solo, diciamo, la, ecco. Poi c'è la possibilità di fare il super ski, che questo consente di comunque fare tutto questo giro. Ecco, quindi scelte differenziate, Deborah, certo, vedi? Certo, infatti ho visto, e tra l'altro poi proprio perché ci sta già ponendo la questione del costo anche di questa pratica sportiva, che naturalmente deve tenere in considerazione tanti aspetti, prendersi la casa, affittare l'attrezzatura oppure comprarla prima di partire e tanto altro ancora, a pagare anche chiaramente per andare sulla pista. C'è Giovanni da Torino, e gli anticipo già che poi ne parleremo, che ci scrive: ieri sono andato a Sestriere, la metà metà delle piste aperte per poca neve, ma questo è un altro aspetto. Cosa fanno per attirare gli sciatori in questo periodo di crisi? Giornaliero a prezzo pieno aumentato rispetto allo scorso anno, solo tra virgolette 36 euro in una giornata. Aggiunge anche: sono matti, Giovanni, non lo so se sono costi che sono necessari anche per pagare un po' tutti i servizi che naturalmente vengono messi a disposizione, ma poi ne parleremo con un esperto. Ne parleremo con un esperto, intanto suggeriteci anche se avete scovato qualche offerta, perché così la segnaliamo all'800 24 0024. Anticipo anche il tema che faremo fra qualche istante, perché c'è chi ci raccomanda, come fa Sandro, di raccomandare a nostra volta chi ci ascolta di assicurarsi per avere la copertura necessaria dai infortuni, naturalmente noi ne parleremo tra qualche istante. Potevamo non pensarci. Siamo prontissimo, siamo nate pronte io e Nicoletta, quindi non ci cogliete in castagna, attenzione. Allora, la salutiamo già l'ospite che ci terrà compagnia fra qualche istante. Salutiamola e poi la traghettiamo dopo i mercati. Esattamente, mi chiedo già scusa per la pronuncia del suo nome e del suo cognome, Stefanie Unterweger, buongiorno. Buongiorno, perfetto così. Grazie, è la dottoressa Unterweger, si occupa di consulenza assicurativa per il Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano. E quindi la scia, persona eh? Giusta al posto giusto. Stefani, lì sciata alla grande, eh? Proprio tutto a portata di mano avete. Noi andiamo ai mercati. Ai mercati a tra poco. Cuore e denari. Molto popolare il mio paese in Argentina e anche qua purtroppo è il C. Sì, parliamo del C. Tu capisci? È il C. Non mi riesce a dirlo, figura di farlo. Sì, è il C. È il C. Bene, il C per plantare la lezione si deve spiegare qual è il scopo del C. Ogni sport ha un suo scopo. E il scopo del C è cibulare. Allora io contesto duramente, morfologicamente, questo scopo. L'uomo non è fatto per cibulare. L'uomo è fatto per camminare, sì, per correre, meno. Per stare sdraiato, perfetto, ma non per cibulare, non volontariamente. Ed eccoci tornati in diretta, ormai Natale vicino, vicinissimo, saremo un po' monotematiche probabilmente anche nelle prossime giornate, Nicoletta perché no, perché accompagniamo verso questo percorso i nostri ascoltatori e cominciamo con lo sport. Ma sempre carine, sempre stimolanti, ce lo diciamo da sole, divertenti, la modestia proprio appartiene a questo gruppo. Dottor Confalonieri, un aggettivo? Belle. Se cominciamo con belle, poi vado avanti con quello che vuole. Spumeggianti. Trascinanti. Eccolo, l'abbiamo ammutolito. Sì. Creano dipendenza. Una dipendenza salutare. Chiamateci. Questa è bella la dipendenza salutare. Sì, ieri abbiamo coniato la gastrite del pendolare. Vede un po' lei qua. Un al giorno ce ne inventiamo. Comunque. Stiamo arrivando dritti al Natale, da qualche settimana gli impianti di sci hanno iniziato a funzionare, anche se il ponte dell'Immacolata quest'anno non è stato un vero ponte, generalmente è proprio quello il momento in cui gli amanti dello sci partono con tutta l'attrezzatura, raggiungono la loro località preferita e prendono così il volo sugli sci. Noi parleremo tra un po' di quanto costa naturalmente fare questo tipo di sport, quanto costano le case che vogliamo affittare, continueremo a parlare anche del fisico. Perché anche quanto ci costa andare sugli sci senza preparazione. Tra l'altro voglio dirle, dottor Confalonieri, che Gianni da Roma non è d'accordo assolutamente per con niente, lei ma va. E la chiama anche Gonfalonieri. Perché è un triatleta, che lei invece non è. Quindi di parlare con cognizione di causa, per piacere. Ha sempre fatto sci di fondo e alla fine primavera era pronto per le gare. Quindi non capisco. Esattamente quello che ho detto io invece. A parte il fatto di aver portato il triathlon in Italia, quindi un pochino triatleta lo sono anch'io, ma parliamo di decenni fa. Io ho detto che c'è una scelta che si può fare. Si può scegliere uno sport come le ciaspole, lo sci da fondo, lo sci alpinistico anche, che è funzionale a uno sport aerobico estivo. E quindi è perfetto, si faccia sci da fondo d'inverno, sono in forma. Per e fare quindi non mi faccio male, che è la cosa importante. Se invece, così chiarisco bene il concetto, se invece non ho obiettivi agonistici particolarmente elevati e voglio lavorare su tutte le diverse abilità del mio corpo, allora è ideale allenare la resistenza d'estate col ciclismo piuttosto che col nuoto, piuttosto che con la corsa, e allenare la forza e la coordinazione d'inverno con lo sci. Sarò meno performante ma più completo. La ginnastica da da tavola non funziona per chi volesse bypassare tutte queste raccomandazioni e fare altro. Neanche prepararsi quella da divano. Neanche quella. Però fermiamoci allora, qua. Basta. Ripesco il messaggio che ci ha mandato Sandro un attimo fa. Mamma mia, stamattina che discoli, raga. Faccio una fatica a tenere sotto controllo questo studio. Il nostro ospite, che fra un po' sentiremo, non sente adesso le cuffie, ma gliele sistemiamo. Allora, Sandro, cosa ci ha detto? Sente. Non parla, ma sente. Aveva fatto un gesto che stamattina siamo un po' ubriachi. Ragazze, scrive Sandro, e ribadisco, ragazze, fate la raccomandazione agli sciatori di spendere quei 2-3 euro al giorno per avere la copertura assicurativa. Così facendo siamo tutti molto più tranquilli e coperti da ogni rischio di vederci portar via la casa. Addirittura, Sandro, non avevo letto la seconda parte del messaggio. Rimaniamo al primo. Allora, Stephanie Unterweger, Centro Tutela Consumatori. Pronuncia perfetta, tra sì, l'altro. Ma non la ripeto perché se no sbaglio. Andiamo appunto alle associazioni dei consumatori che vivono a Bolzano e lavorano lì. Quali sono le vostre raccomandazioni in questo senso? Si assicurano generalmente gli sciatori o sono un po' così impreparati da questo punto di vista? No, di solito vediamo che le persone preferiscono una copertura annuale, quindi un RC terzo, una polizza infortuni che copre tutto l'anno e quindi ovviamente sono anche coperte in pista. E invece lei dice che bisognerebbe farsene una specifica per il periodo in cui si va a sciare? No, invece consigliamo di fare delle polizze annuali, quindi i consumatori altoatesini fanno proprio quello che consigliamo e si coprono per tutto l'anno, per tutti gli infortuni che possono capitare. Da che cosa, quali rischi appunto coprono esattamente questi strumenti assicurativi, dottoressa Unterweger? Allora, sono due le polizze distinte separate. Una la polizza infortuni che copre le spese immediate dell'infortunio, ma anche la parte ancora più importante, gli aspetti finanziari di un'invalidità permanente. Quindi in caso di sinistro l'assicurato riceve liquidato una somma unica in conto capitale, la quale va in relazione alla gravità dell'invalidità permanente ed al massimale indicato in polizza. E se invece uno sciatore va addosso ad un altro, si può anche coprire dal punto di vista assicurativo da questa circostanza? Sì. In questo caso uno ha bisogno della polizza di responsabilità civile privata che copre i danni che subisce un terzo e che l'assicurata ha causato involontariamente. Rapidamente, dottoressa Unterweger, quanto è corretto spendere secondo lei per polizze di questo tipo? Teniamo conto che ovviamente molto spesso va coperto anche un intero nucleo familiare, insomma proprio per non spendere troppo, una cifra giusta a suo avviso qual è? Ma queste polizze non sono tanto care, c'è una polizza RC terzi, cosiddetto capofamiglia, la vado a pagare sui 70 fino al massimo 150 euro all'anno. Benissimo, grazie a Stephanie Unterweger, insomma anche se ci crediamo invincibili sulle piste, invece cerchiamo anche un po' di pensare a queste cose che possono capitare e quindi tuteliamoci perché sì, è sempre meglio. Teniamo conto che ogni anno il sistema di sorveglianza epidemiologica che è attivo dal 2003 presso il reparto ambiente e traumi dell'Istituto Superiore di Sanità rilascia una sorta di bollettino dei traumi più frequenti. In testa ci sono le distorsioni, dottor Confalonieri, e di queste insomma il 94% è a carico degli arti inferiori, poi ci sono le contusioni, le fratture, le lussazioni e per ultime le ferite, quindi sciamo soprattutto con la testa, dottor Confalonieri, perché non occupiamoci prima che con le gambe. Mettiamoci gli sci, ma attiviamo la testa oltre che un'assicurazione. No, attiviamo la testa prima per vedere se non corriamo rischi specifici legati alle nostre caratteristiche, poi non esageriamo mai. Questa è la cosa più importante, nel senso che una caratteristica per esempio della sci da discesa è che risalire non è faticoso, certo. E magari non ci rendiamo conto e siamo a fine giornata e spesso è proprio l'ultima discesa quella che crea il danno, perché non ci siamo resi conto di quanto stanchi eravamo e diventa quasi una sofferenza. Allora, dato che ci stiamo appassionando sia Deborah che io alle ciaspole, ma molti nostri ascoltatori ci stanno scrivendo, perché la puntata di oggi vuole anche invitare gli ascoltatori a raccontarci come si fa a risparmiare un po' andando in montagna, godendosi però a pieno tutte le cose belle che la montagna in questo periodo sa regalare. Io, cara bella Deborah, ho invitato il professor Michelangelo Giampietro, che è in linea con noi. Buongiorno professore. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, bentrovati. Grazie. Specialista in medicina dello sport e in scienza dell'alimentazione. Professor Giampietro, ci faccia un inno alle ciaspole. Piacciono molto ai nostri ascoltatori, anche noi ci convertiremo a queste racchette da neve perché sono risparmiose. Brava. Ma fanno risparmiare soldi, ma fanno invece spendere molte calorie, ad esempio, è così? Assolutamente sì, l'inno non ve lo faccio cantato perché sono stonato, ma con le parole cercherò di dare quanto più importanza a questa attività economica, tradizionale, molto ecologica, ecologistica se vogliamo, quindi con un basso impatto ambientale, e semplicemente il camminare sulla neve aiutato da queste particolari racchette che consentono una deambulazione facilitata, anche se costosa in termini di spendio energetico, come sempre l'attività quando si cammina in una superficie innevata. Chiaramente il dispendio, poi la fatica dei muscoli, il lavoro che i muscoli devono fare, dipende anche dalle condizioni della neve, se è una neve ghiacciata, se è una neve farinosa, se è alta, se è bassa, ma sicuramente è una tra le attività consigliabili in montagna sotto tutti i punti di vista, anche perché se opportunamente preparate, senza grossi diciamo sforzi fisici, è alla portata di chiunque, anche di persone avanti con gli anni, unisce i grandi e i piccoli, si può fare tranquillamente da soli per godersi assolutamente il piacere della natura incontaminata, oppure in compagnia, e quindi sfruttare anche questa particolare attività come momento di socializzazione. Professor Giampietro, ci ha convinto, Deborah e io veniamo a ciaspolare con lei. Eccoci qua. Tutto bene. Dove ci troviamo? Dove ci ritroviamo? Ma dove volete voi, io vi lascio la facoltà di scegliere, sarò io a raggiungervi per il piacere di stare con voi e festeggiare. Vedi, un vero uomo. Insieme. Un vero uomo di quelli introvabili. Attenzione che ricordate che con le ciaspole è bene avere larva. Okay. Ci scrive un ascoltatore che invitiamo a chiamarci, il dottor Confalonieri annuisce, vuol dire che lo sa, ma io non lo so. L'apostrofo arva. Larva, esatto. Perché come si, bisogna anche imparare ad usarla, soprattutto se si fanno delle piccole vette. Allora, grazie al professor Michelangelo Giampietro per essere stato con noi. Buona noi giornata. Ci diamo appuntamento sulle ciaspole e intanto andiamo invece a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. E non sulle piste. Cuore e denari. Allora, adesso ci stiamo allenando per prepararci alla nostra ciaspolata. Intanto l'accompagnatore l'abbiamo trovato, il dottor Confalonieri ci prepara perché ciaspola. Aspetta, lui non lo vogliamo portare? No, lui sulle ciaspole andrà da solo, vero? Andrò da solo, quest'inverno farò 15 giorni con le ciaspole, e se vorrete seguirmi su Facebook, quest'estate abbiamo visto la mia ripresa dell'attività sul sito ovviamente della trasmissione, abbiamo visto la mia ripresa dell'attività camminando e poi correndo. Vediamo come andrà quest'inverno con questo, le ciaspole. Questo reality non me l'aspettavo. Ci piace, noi lo teniamo d'occhio il nostro dottor Confalonieri, lui non vuole, lui ma noi ci tiene d'occhio gli arti e tutta la fisicità, e voi continuate a raccontarci come si può vivere la montagna risparmiando un po' di soldi. Ecco, perché adesso introduciamo proprio il tema delle mete da scegliere per queste vacanze invernali. Qualcuno di voi ce le ha già raccontate all'800 24 00 24. Continuate a farlo. Dove andrete, se ci andrete chiaramente, scriveteci anche questo alle 349-238-6666. Andrete nella località in cui vi portavano i vostri genitori e alle quali siete affezionati? Siete sciatori e scegliete in base alle piste più belle e convenienti? Oppure non avete mai sciato in vita vostra e inizierete quest'anno? E allora dove andrete? E infine, casa di proprietà o in affitto? Salva Danaio. scodinzolo della montagna con la neve alta così. Per la valle noi scenderemo con i piedi un paio di sci sci. E allora buongiorno e benvenuto e bentrovato anche il nostro Alessandro Ghisolfi, responsabile dell'ufficio studi di casa.it, che è il più grande portale di annunci immobiliari italiani. Buongiorno a voi. Ahimè, grazie. Le tocca lavorare qua. Vabbè, per una volta si fa. Buongiorno, per una volta qua, ecco, per... che è pronto ad andare in Carinzia. Io sì. Ecco qua, che prezzi ci sono? Là ce lo dica immediatamente. Ma là, diciamo, prezzi di vendita delle case sono sensibilmente minori rispetto a quelli in Italia. In affitto anche, nel senso che comunque una settimana costa intorno anche ai 200, nell'alta stagione di montagna, diciamo. 250 euro. Incredibile. A settimana, sì. 200-250 euro. Sì, sempre ovviamente parlando di abitazioni piccole, cioè 40-45 certo. metri quadri. Senta un po', facciamo invece un punto generale della situazione. Le località di montagna per queste feste a cavallo tra il 2013 e il 2014 saranno affollate o la crisi un pochino ridimensionerà i flussi turistici in montagna? Beh, diciamo che la crisi ovviamente ha inciso parecchio e quindi anche quest'anno, come già negli ultimi due o tre anni, il flusso sarà più basso. Però bisogna dire che la cosa importante è che questi flussi sono sui tempi brevi, quindi c'è chi prende soltanto per qualche giorno. Sì, una casa mordi e fuggi. Si è ridotto un po', ecco, il periodo, un sommando po' come è successo per l'estate. Tutti i periodi brevi, poi si vede che alla fine questo forte calo non c'è. Ah, incredibile, sì. Hai visto? Quindi invece che fare 15 giorni come fa il dottor Confalonieri tutti di fila, uno ne fa 3 e alla fine spende la stessa cifra. Sentiamo Salvo da Trapani, che dalla Sicilia lui vuole andare a sciare, quindi vuole raggiungere le località di montagna del nord Italia, però già insomma è un po' scoraggiato dai costi che ha visto. Salvo, buongiorno. Buongiorno. E allora? Allora, io premetto che sono anni che scio, vado sempre a sciare Spagna, di spagnoli e spagnola, avrò sempre il Principato d'Andorra, un posto delizioso. Però sta di fatto, appunto, come diceva il vostro ospite proprio adesso, per via della crisi, prima si andava una settimana, 10 giorni, e per cui c'era il nostro fisico si adattava a quella che era... Ah, ecco, anche questo è un aspetto importante. Poi si adattava a quelle che erano ovviamente le altitudini, si adattava giustamente al dispendio energetico che noi facevamo nei primi giorni. Adesso questo purtroppo non si può fare più, perché anche noi ci siamo ridimensionati per fare ormai il weekend bianco, non più la settimana bianca. Quindi ha rinunciato Salvo quest'anno, oppure appunto fa la vacanza mordi e fuggi, come l'abbiamo ribattezzata? Ho rinunciato perché l'esperienza dell'anno scorso non è stata positiva. Ci siamo trovati tre giorni tutto concentrato e siamo tornati più stressati e stanchi di prima, con rischio anche di farsi Ma lei perché insiste su una località che è particolarmente costosa, Salvo? Perché adesso noi le daremo qualche chance appunto per magari, come dire, pizzicare una località dove i costi sono accettabili, dove magari addirittura si può divertire 10 giorni. Lei qual è la località che vuole? Io premetto innanzitutto che il Principato d'Andorra non sono per niente costose. Quindi la Spagna? Assolutamente, sì, la Spagna è il tratto franco-dogana, quindi non c'è neanche IVA, anzi molti vanno lì per fare del buon shopping. Sono c'è anche attrezzature molto gestibili dal punto di vista di famiglia, si parlava dei bambini. Però là insomma bisogna prendere l'aereo, Salvo, certo, magari è un po' più complicato. Vado lì perché appunto però lui ha una moglie spagnola. Eccolo là. Salvo, no, grazie. Allora, però se lei rimane con noi abbiamo anche degli ascoltatori che ci danno suggerimenti. Infatti, no, stavo pensando tra l'altro che con tutte le belle montagne e le località che abbiamo dobbiamo delocalizzare anche la vacanza sugli sci. Ghisolfi, che ne pensa di questo nuovo fenomeno? Beh, no? È un fenomeno sì che avviene comunque anche dal punto di vista delle compravendite, anche dal fatto che tanti italiani hanno spostato il loro investimento immobiliare su delle località estere piuttosto che restare sulle nostre. Però, per un problema di tassazione a prescindere diciamo, dai prezzi. Certo. Però dal punto di vista appunto dell'ascoltatore è chiaro che poi trovandosi in Sicilia, se non ho capito male, è ovvio che non può fare i 3-4 giorni a Cervinia piuttosto che diventa a Courmayeur. Però ci ha detto anche una cosa interessante l'ascoltatore, che ritorna anche quando parliamo di pelle al sole, dottor Confalonieri, perché quando noi poi abbiamo voglia di mare arriverà anche il tempo del mare, vogliamo subito essere abbronzati oppure non abbiamo il tempo di guadagnarci la abbronzatura, gradualmente ci scottiamo, ma anche, come diceva l'ascoltatore, 3 giorni intensi di sci stressano, ci espongono a un rischio e non sono riposanti. È molto interessante, non solo 3 giorni intensi di sci, 3 giorni intensi di altitudine, e quando parlo di altitudine parlo di quote superiori già ai 1200-1300 metri. Abbiamo problematiche soprattutto per tutte quelle persone che sono ipertese borderline, dove basta andare a 1200-1500 metri per cominciare a stare male, a soffrire o a rischiare di stare male, a soffrire. Quindi un consiglio fondamentale che mi sento di dare è: se andate soprattutto per pochi giorni in montagna, indipendentemente dal fatto che sciate o meno, controllate la vostra pressione ed eventualmente rimodulate la vostra terapia antipertensiva per potervi godere la vacanza, perché questo è un rischio spesso sottovalutato. Benissimo, allora ci possiamo prendere forse qualche secondo di pausa? Volevi fare qualcos'altro? No, vedevo tutta concentrata sul copione. Focalizzavo l'attenzione sui messaggi dei nostri ascoltatori che ci suggeriscono per risparmiare sci alpinismo, ciaspole oppure lo ski pass a ore. Ottimo, esatto. Ma tu guardali qua che mi anticipano tutti gli argomenti oggi, ma sono molto contenta di questo. Vi aspettiamo. A dopo il giornale radio. Cuore e denari. Si va, si va, si va, si va, si va, si va, si va. Quando la neve scende giù lieve, non esitar si deve. Prendi il tuo sacco e lesto va, dove più fioccherà. Questa non ve l'aspettavate, eh? Questa con Falonieri è stramazzato al suolo. D'altronde no, che faccetta ha fatto? Sì, era, nonostante tutto quello che ci ha detto fino a 2 minuti fa, è stato anche carino. Torniamo a Cuore Denari. Cosa farete per le vacanze di Natale e Capodanno? Ci lo state raccontando all'800 24 00 24, ma chiaramente la nostra attenzione stamattina è focalizzata su chi decide di sciare. Siete fisicamente pronti? Vi siete allenati nel corso dell'anno? E quanto avete intenzione di spendere? E soprattutto, volete risparmiare? Arrivano molte indicazioni dei nostri ascoltatori proprio con località, soluzioni, ad esempio il lago di Braies, bellissimo. Un'ascoltatrice, Lucia da Como, ci invita ad andare nelle sue valli. E poi anche un'altra, Lucia da Cuneo: venite in provincia di Cuneo a fare sci di fondo, posti bellissimi e prezzi contenuti. Oppure si riesce ad andare a sciare magari durante la settimana, perché i prezzi sono sicuramente inferiori, e questa è un'opportunità per chi ad esempio fa lavori a turni. Ma un ascoltatore ci ha trovato impreparate, ci ha anche bacchettato un attimo, adesso lo ripesco, ecco, questo casa signore casa.it, pazienza, io sono imperdonabile con Falonieri, con la C e non con la G. Vito scrive: vi colgo sicuramente impreparate, io vado a pattinare sui laghetti ghiacciati, mi diverto e non spendo niente. Fa bene, dottor Confalonieri? Assolutamente sì, è uno sport divertente, fa molto bene, abbina gli aspetti di velocità, di coordinazione e di resistenza, è piacevole, quindi sì, sono impreparato, non ho parlato del pattinaggio. Eccoci qua, beccati, bene colti sul fatto. Guardaci, e io qua non ho ancora capito che cos'è l'arva, l'apostrofo arva, per andare a ciaspolare, non la sa neanche il dottor Adesso Confalonieri. Adesso cerchiamo su magari Wikipedia qualcuno al volo, ma andiamo. Sì? Che? Abbiamo Filippo che ci chiama da Roma. Sì, qua stamattina sta succedendo. Buongiorno. Ci vorrebbe una telecamera piazzata sopra le nostre teste. Non so perché la neve ci mette la ridolina, Filippo, scusi, a me fa questo effetto qua, pur senza aver bevuto. Sto ridendo anch'io, devo dire, perché ho sentito l'invito alla prudenza, alla sicurezza. Certo. Io sono un ex atleta, scio in Abruzzo, dove devo dire che è molto economico. Bravissimo. Bravo. Andiamo verso il centro Italia, bravo. Ecco, esattamente, sono un abruzzese doc, mi piace molto lo sci 8 ore al giorno, e l'invito che volevo rivolgere a tutti gli sciatori, un po' d'accordo col dottor Confalonieri, è: state attenti, perché quando si è stanchi quello è il momento che ci si fa male. E quello è il momento che veramente bisogna saper dire basta, proprio come la guida. Esattamente, bisogna saper dire basta, bisogna saper valutare le proprie capacità. Assolutamente. Bene, grazie Filippo. Filippo, e sono abruzzesi i fichi, quelli ricoperti di cioccolato? Mi sembra di sì, perché un ascoltatore ci dice, vedo che Laura Vanossi è dietro, no, ma dietro anche al vetro, anche Golfi che ce l'ho qua davanti dietro a me. Dietro al vetro dirà, ma lei dove? Perché un ascoltatore a proposito di sci, sì, ci dice, ci raccomanda di tenere in tasca fichi secchi, no, col cioccolato che magari si scioglie, e dai, vabbè, anche uno, dai. Piccoli spuntini. Esatto, come la frutta secca, insomma. Monoporzione. Totalmente d'accordo, vanno benissimo, e poi io non sono il dottor Noce, però voglio dire, ricordandolo, che, speciali che obiettivamente anche la frutta secca va benissimo da questo punto di vista come spuntino, anche perché essendo ricca di acidi grassi nobili ci serve da tutti i punti di vista. Ghisolfi faceva un po' un gesto, acidi grassi nobili saranno pur nobili ma sempre grassi sono. Pensavo la polenta e brasato. Eccolo là, Ghisolfi, dove l'andiamo a mangiare quest'anno? Ci dia qualche indicazione di località molto bella, sono tutte belle quelle italiane, sì, ma andiamo un po' a cercare i luoghi della convenienza quest'anno, dove sarà possibile affittare un'abitazione a prezzi accettabili. Diciamo che dai nostri dati abbiamo visto che per esempio i canoni di locazione che hanno subito i maggiori ribassi in questo momento sono in Lombardia, quindi località come Bormio, Madesimo per citare le più famose, o Ponte di Legno, e poi in Valle d'Aosta, anche nella Val d'Ayas come Champoluc piuttosto che il paesino vicino che è Antagnot. Oppure per andare dove dalle... va il dottor Confalonieri? Ho vissuto le vacanze per 36 anni. Hai capito? Che caramba, che sorpresa che abbiamo fatto questa mattina. Altre tendenze interessanti? Tendenze interessanti, appunto quelle che stavamo rilevando in questi giorni, sono appunto di un certo calo rispetto all'anno precedente sulle prenotazioni per il periodo top, che è quello appunto che va diciamo da Natale a Capodanno, e invece una crescita della domanda di abitazioni in affitto proprio dopo Capodanno. Quindi... Ricordatevi tra l'altro che sta arrivando il provvedimento del governo che obbligherà tutti a pagare gli affitti con strumenti tracciabili, quindi scordiamoci i contanti. So che magari questo vi farà arrabbiare perché avevate il proprietario di una casa in montagna amico da tutta la vita con la quale vi mettevate d'accordo, però insomma stiamo attenti perché invece bisogna combattere l'evasione fiscale in ogni modo. Allora, comunque io adesso lo so che cos'è l'arba. È vero, perché i nostri prodi assistenti hanno subito trovato la definizione di questo termine, che è un dispositivo di sicurezza per trovare gli sciatori quando vengono sommersi da una valanga, e quindi è un sistema di localizzazione. Ringrazio gli ascoltatori che ci hanno scritto al 349. Adesso è facile dire adesso lo sapevo, eh? Non ho voluto rischiare la brutta figura, però durante la pausa ve l'avevo detto che probabilmente era quello. Allora chi peschiamo adesso? Cristina da Roma ci sta aspettando da un po'. Da un po', Cristina, eccoci qua. Sì, buongiorno, sì, da un po'. Siete in tanti, non ce la facciamo ad accontentarvi tutti, ci dica. Allora, no, io parlo dal momento che ho fatto sport da quando ero piccola, poi ho smesso agonisticamente 2 anni fa, quindi confermo che facendo spinning, perché faccio anche spinning o mountain bike, quando si va a sciare è molto meglio, i muscoli sono preparati, si scia tranquillamente dalla mattina alla sera, quindi condivido quello che hanno detto. Sono più svegli, perché ormai nessuno più fa la prescistica, che un tempo invece si faceva, si iniziava a ottobre, si faceva la prescistica, adesso non è caduta un po' di moda? No, direi che come offerta c'è ancora in quasi tutti i centri sportivi, non è vissuta come un'offerta modernissima. Secondo me basterebbe cambiarle il nome, come hanno fatto con la correttiva, che si fa ancora ma mai viene chiamata in tanti modi diversi, e se troviamo un nuovo nome per la prescistica secondo me potrebbe vendere ancora bene, anche perché è fondamentale. La fa Ghisolfi, lei che va in Carinzia? Certamente. Si prepara? Proviamo a inventare allora un nome per la prescistica. 800 24 00 24, magari dopo poi la gastrite del pendolare si può vendere poi un nome? Sì, perché poi alla fine assomiglia tanto a quella gag che piace, perché glutei, addominali, gambe, alla fine quello è. Ecco. Allora, Cristina, intanto da Roma, grazie. Quindi la ringraziamo per essere intervenuta. E Andrea, scriverci. Brava. E Andrea Stefano da Padova che ci introduce all'altro approfondimento di qualche minuto che faremo tra un istante. Stefano, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci a lei. Dunque, io volevo un po' rifarmi a quello che dicevate prima sui costi dello sci. E dunque, praticamente se uno riesce a informarsi su internet, ci sono vari negozi, almeno qua in Veneto, che riesce ad affittare l'attrezzatura per tutto l'inverno. Addirittura. Per un appunto a 150 euro, i bambini 50 euro, mi sembra che un asdraio... Certo, in piena stagione costi molti di più. Certo Stefano, è ovvio. Ha dei costi completamente diversi, insomma c'è una gestione diversa degli impianti e la corrente elettrica che tutti noi utilizziamo per risalire con le seggiovie costa tantissimo in Italia, quindi anche i riferimenti che fanno con l'Austria e robe del genere. Se noi iniziassimo a far pagare un po' meno questi... Queste strutture, queste le materie prime, le chiama Stefano. Le materie prime. Guardi, diciamo, la faccio interagire con chi di tutto quello che lei ci ha raccontato ne sa e come. Buongiorno a Francesco Bosco, direttore generale di Funivie Madonna di Campiglio. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ha sentito quello che ci diceva Stefano? Adesso a parte... lo devo sponsorizzare Stefano, effettivamente dico. Ha raccontato una grande verità. Noi purtroppo stiamo combattendo in Italia con... oneri gestionali che sono veramente altissimi rispetto all'estero, sto parlando di energia elettrica e di gasolio. Lei consideri che negli ultimi 3 anni noi abbiamo avuto un aumento del 49% per quanto riguarda il gasolio da trazione e il 29% per il costo dell'energia elettrica. E in che misura avete scaricato, mi passi il termine, sui vostri clienti, sui turisti che arrivano da voi appunto questi oneri che dovete comunque sostenere, spese fisse per lo sciatore? In maniera minimale, nel senso che tutte le grandi stazioni hanno avuto in questi anni l'accortezza di aumentare lo skip solamente sul valore dell'inflazione, perciò sto parlando di un 3%, 3,5%, 2,8%, anche perché poi dico bisogna arrotondare i prezzi. E il resto Mi scusi, perché io sto andando un po' a lezione da Deborah, allora devo avere dimestichezza. Non era 0,7 l'inflazione? È un pochino più bassa, vabbè, comunque ci avete messo l'IVA e tutto, Bosco, no? Ah, beh, chiaro. Perché l'inflazione non mi tornava. Va bene, allora Io mi riferivo soprattutto agli anni scorsi, senso che 3 anni fa l'inflazione era sull'ordine un po' più alto. Detto questo, adesso è inutile disquisire sull'inflazione. Bosco, ci dica un po' come possiamo farci una vacanza serenamente in queste belle località, appunto cercando naturalmente anche delle offerte sostenibili per tutto il nucleo familiare, perché se si parte con tutta la truppa, con tutta la famiglia, non è che spendiamo poco, certo. Non è solamente prendersi gli sci, magari noleggiare l'attrezzatura, significa anche pagare lo ski pass, appunto gli impianti organizzati, ci sono gli abbonamenti, insomma come si fa? Beh, innanzitutto dico informandosi, nel senso che da un po' di tempo a questa parte tutte quante le stazioni dell'arco alpino si sono adeguate alle esigenze di mercato, perciò offrono nei periodi di bassa stagione dei pacchetti comprensivi di ski pass e soggiorno, e sono pacchetti veramente molto convenienti che ti permettono veramente nel nostro comprensorio presenti in questo periodo su strutture alberghiere tipo Garni è possibile soggiornare 7 giorni e sciarne 6 con costi che vanno da 280 euro in su. Poi chiaramente se uno sceglie un albergo a 4 o 5 stelle i costi sono chiaramente diversi, però sono molto competitivi, e questo è un primo concetto. L'altro concetto che ha preso veramente piede è l'attenzione verso i bambini. Oggi i bambini fino a 8 anni sono gratuitamente e questo non è poca cosa, e anche per gli junior, cioè ragazzi fino a 16 anni, c'è uno sconto del 30% sul prezzo dello ski pass, e questo proprio per favorire le famiglie. Rapidamente Bosco, lo ski pass invece ad ore come va? Direi molto bene, nel senso che anche quella è stata un'idea che ci è venuta anni fa, nel senso che lo slogan era sia quanto vuoi e paga in relazione a quanto sci. Perciò uno rispetto al vecchio mattiniero o pomeridiano, dove uno chiaramente iniziava alle 8:30 del mattino e fino alle 12:30 aveva il mattiniero, dalle 12:30 alle 16:30 aveva il pomeridiano, però era fisso su quegli orari. Oggi uno prende il 3 ore o il 4 ore, decide quando prenderle. E quanto ci costa, Bosco, per concludere con lei? Beh, allora un 3 ore costa 30 euro rispetto a un 40 euro per quanto riguarda il giornaliero. Beh, magari un pochino si può scontare anche un po' di più, però che ne dice? Già, si mette una mano sul cuore, qua a cuore denari. L'importante è non metterne un altro al portafoglio. Ecco, esatto. Bosco, grazie molto, in bocca al lupo per la stagione naturalmente che si sta aprendo, vi auguriamo tutti i migliori successi per queste località meravigliose. Sentiamo Massimo da Bolzano. Sì, e io continuo a invitare gli ascoltatori a superare la barriera rosa per decidere insieme come la chiamiamo questa ginnastica presciistica, che abbiamo visto che è fondamentale per preparare tutti i nostri muscoli e le nostre articolazioni ad affrontare con energia, equilibrio, armonia lo sforzo che devono intraprendere quando sciano. Ma insomma, questa presciistica, il nome non piace più, svecchiamola insieme a Cuore Denari e andiamo. Allora, Bolzano. Massimo. Pronto, buongiorno. Sì. Buongiorno a voi. Si è fatta una bella sciata già oggi? Allora, io sto andando proprio adesso a sciare. Oh, dove? Consiglio tra l'altro il passo San Pellegrino, che è a confine tra Trentino e Veneto. Tra l'altro c'è una gara delle Universiadi, per cui darò un occhio anche a questo. Benissimo, speriamo non faccia lievitare i prezzi, perché lei lo sa che quando ci sono queste manifestazioni straordinarie non si capisce perché, come la moltiplicazione dei pani e dei pesci, anche quella dei prezzi avviene in maniera istantanea. Per quello che è stato detto anche da precedenti ospiti, nonché da esperti, direi che il prezzo dello ski pass giornaliero più alto di così, con tutti i problemi che ha di costi elettrici eccetera, peggio non potrebbe essere, ecco. Se si pensa a un Dolomiti Super Ski, che è quello che ci dica intanto. Senta, Massimo, andiamo, perché poi le voglio chiedere se conosce Misurina, patrimonio dell'umanità, due passi bellissima, da Cortina, un favoloso, ce lo suggerisce Luca. Vada, ecco, Massimo. Ero intanto chiamato per sponsorizzare fortemente l'attività dello sci alpinismo, che è praticamente quella che faccio di più, che è appunto a costo zero, evita rogne di pagamenti di ski pass e quant'altro. I gestori, devo dire con una certa malizia, se ne sono accorti e stanno vietando un po' dappertutto la pratica. Vabbè. Poi chiaramente la cosa può essere fatta fuori pista con i rischi del caso, sì, mi collego al discorso dell'arva. Sempre presente, oltre che a pala e sonda. Quindi Massimo spezza una lancia, anzi ci invita a praticare sci alpinismo, ma noi come facciamo? Dobbiamo avere troppi appuntamenti, ciaspole con il professor Di Pietro. Vabbè, poi io invece Massimo... mi sono incuriosita dalla carinzia del nostro Alessandro Ghisolfi, guarda un po', ma non perché voglio venire con lei Ghisolfi, non si spaventi, no, è perché mi incuriosisce la località, perché cos'ha di particolare? È una località termale anche. Quindi ecco perché magari offre la possibilità anche a chi non è un amante, per esempio, dello sci di discesa. Perché di non è detto che se tutta la famiglia parte, tutti quanti sciino, no? Esatto. E quindi magari bisogna cercare delle alternative anche per chi non ama particolarmente, come me, questa pratica sportiva. Guarda che arrivano un sacco, li leggi, sì, che io ho messo questi occhiali. Allora, Winter Warming, Emanuele da Monza ci scrive per la sciistica, la presciistica. Ah, ti ha dato il nome nuovo. Ski Gym, Mario che ci scrive, poi adesso vado a prenderne altri, continuate a scrivere e intanto noi abbiamo un po' di ascoltatori. Apriamo, ancora. Sì, esatto, apriamo anche una parentesi per i sogni. Dai. Sai com'è, io ho questo obiettivo di sposare entro Natale un multimiliardario. Quindi Ghisolfi, mi dica un po', qualora accadesse questo miracolo, perché io devo valutarli prima, sì, quindi esatto, dobbiamo passarli che, un po' in rassegna, in redazione. Dopo che Nicoletta mi ha dato il suo benestare a questo mio nuovo fidanzato, dove mi faccio portare? Mi dia la località da sogno dove si spendono tanti di quei sogni, tanti di quei soldi, esatto. Che uno non se li sogna neanche, esatto, non li abbiamo mai visti neanche scritti. Mi ha raccontati scritti. Anche il Sole 24 Ore proprio in questi giorni in una pagina curata dalla nostra amica Paola Dezza. Dove andiamo? Sì, Svizzera numero uno, nel senso che ci sono determinate località come St. Moritz, Hochstad, Ma io ho visto che anche l'Argentario. L'Argentario? No, possibile? No, non credo. Non credo, Grosseto, la zona di Grosseto, ci sono delle località, forse ho letto male, non... Dove andare in affitto, ovviamente non a sciare però. Ecco, no, ma infatti no, c'era un posto, allora devo guardare bene, appunto, indicato da Paola proprio io sulle... Io mi concentravo in questo momento sulla montagna e quindi se ci concentriamo sulla montagna Solden e pensiamo... Solden in Austria. Solden in Austria, sì, però se sposi un multimiliardario e gli chiedi uno chalet... Così da comprare, diciamo che sotto i 50.000 euro al metro quadrato trovi poco. Avevo letto 8.800 una settimana appunto in questa località. In affitto, certo. Devo guardare meglio questa cosa della Toscana. Sì? Andiamo a Davide che ci chiama da Milano. Sì. Rapidissimo perché ha superato la barriera rosa. Davide, buongiorno. Pronto, buongiorno. Mi piace Davide che è così veloce. No, chiamo semplicemente perché da proprietario di palestra l'anno scorso mi sono inventato il nome Sexy Legs e ho visto che ha coinvolto parecchio anche il, bravo, Davide, il sesso maschile, oltre che quello femminile. Comunque, è un modo diverso per chiamare gambe la sexy. Sexy Legs, mi piace. Ma lei lo deve brevettare, Davide. Magari lo brevetterò. Nella mia palestra c'è, poi vedremo. Protegga subito questo nome, perché glielo, dopo che l'ha sentito tutta Italia oggi, glielo andranno a rubare. Davide, noi veniamo a fare Sexy Legs. Benissimo, vi aspetto. Va allora. Bene, vengo. Saluto con il dottor Confalonieri, con cui ho avuto la fortuna di collaborare una decina d'anni fa. Grazie. E ancora dobbiamo ce l'ha in città. Basta, non parliamo più, salutiamoci. Bene, grazie a tutti per essere stati con noi. Andate a sciare, divertitevi, diteci quanto spendete lunedì. Insomma, grazie allora. Buona giornata. Buona giornata. Cuore e denari.